lo portiamo dall'oblio, ogni club, ogni pub, ogni strada di Torino, lo portiamo in giro, noi lo portiamo più in alto sul palco, Big Jing spina nel fiato. E lo portiamo in giro, nelle strade di Torino, lo pompiamo, noi gli spingo e voi fate casino, se puoi vieni più vicino che sei troppo lontano. Lo portiamo sia al bambino che all'adulto, all'anziano, lo portiamo alla mattina, lo portiamo alla notte, lo portiamo se vai in macchina o se sei rimasta a piotte, alle mignotte, alle persone corrotte, dotte, a chi non fotte, alle tipe sedotte. E lo portiamo anche di giorno, lo portiamo di sera, lo portiamo in inverno, estate, autunno, primavera, a chi non ci credeva, a chi farà carriera, per la gente sincera, vera, libero in galera, e con la speranza sia la volta giusta, lo stile che piega la schiena a colpo di frusta, le rime a catena, di cime piene la busta, la gente si scatena senza dire mai basta. E lo portiamo in giro, lo portiamo dall'oblio, ogni club, ogni club, ogni strada di Torino, e lo portiamo in giro, me lo portiamo più in alto sul palco, Big Jig spina nel fianco. Novità catch in block, bro, coi disastrati, quest'anno mio flow corre più di una Ducati, malati, coi fisici bestiali alla Carboni, ma preferisco i duplici a Satoshi Tomi. Se la gente rotola sono vostro leoni, da cresta, da spartano sulla mano, ora si sgomita, ancora on the road, nell'era dell'iPod, nell'era del po, poro po po po, dal po, dati o un latito sballato, occhio strabico impallato, bestiale come il battito, un tono, un lampo, la spina nel fianco, sbanco, manco fossi, Benny Blanco. Io uccido qualche cazzo di figlio di babbo, qualche sfirro babbo con la faccia da cazzo, gabuba del cazzo, fai foto t'ammazzo, fai foto metti a fuoco il mio culo mentre spazio. E lo portiamo in giro, lo portiamo dall'oblio, ogni club, ogni club, ogni strada di Torino, e lo portiamo in giro, me lo portiamo più in alto sul palco, Biga Jig spina nel fianco. Il Biga entra e picchia duro, vado veloce serrato come un enduro, non mi guardare male, non mi affrontare, se non vuoi the tank pronto ad asfaltare, ed istantaneamente capottato in piazza Vito, un giro giù ai muri e poi mi convinco e poi io spingo, no, no fingo, you know white widow, pick up the spingo boy, motociclismo sfrenato come The Jackass, vespino cromato come Lorenzo Lamas, e sulla spiaggia di Tijuana cocktail e ketama, boriva come Valderrama. E lo portiamo in giro, lo portiamo dall'oblio, ogni club, ogni pub, ogni strada di Torino, e lo portiamo in giro, me lo portiamo più in alto sul palco, Big Jig spina nel fianco.